Incontri di Gianfranco Fabi. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Con queste note di Cat Stevens, Father and Son, iniziamo l'incontro di oggi e ringraziamo di essere tra noi Sergio Dompè. Buongiorno, dottor Dompè. Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Buongiorno e buona domenica. Quanti ci ascoltano? Father and Son, una canzone degli anni 70, mi sembra. Di Cat Stevens, molto bella. Molto bella, molto bella. Le ricorda forse i primi tempi in cui lei è entrato in azienda? Ricorda, diciamo, un po' quando ero un ragazzo, e devo dire che questa trasmissione proprio di testimonianza tra il padre e il figlio rappresenta un po' un filo conduttore poi di tutta la vita di ognuno di noi, per il lavoro, per la vita privata, per tutto il resto. Ecco, Sergio Dompè, una breve carta d'identità per introdurci: imprenditore, attualmente presidente di Farmindustria, un'impresa che è arrivata alla quarta generazione nell'ambito farmaceutico, con sede a Milano, quindi di grandi tradizioni, è impegnato sul fronte aziendale, sul fronte associativo e altre cose? Ma le solite passioni, evidentemente, dalla vita privata, quel po' di sport che ognuno di noi riesce a fare, gli affetti familiari, ho una moglie, ho due figlie, una di 23 anni e l'altra di 6 e mezzo, che come ogni papà sono le due cose più belle che ho. Indubbiamente. Quindi imprenditore, essere imprenditore alla quarta generazione. Spesso si dice i figli mantengono l'industria dei padri, i nipoti disperdono il patrimonio, non è il suo caso. Ma diciamo, magari qualcosa ho disperso anch'io, perché no? Il problema secondo me è che bisogna essere animati dalla passione. Ecco, la passione si sente, Radio 24. E grazie per lo spot. Che la passione è quello che secondo me è il reale catalizzatore di ognuno di noi. Se sei appassionato, poi in qualche maniera facilmente ti salvi, non dico tutte le volte, ma quasi. Le imprese, soprattutto oggi, stanno diventando delle fucine di attività con la necessità continua di rimodulare tutto, per cui non soltanto abbiamo dovuto fare tante trasformazioni in questi oltre 100 anni di presenza dell'impresa sul territorio, e altre ne stiamo facendo, ma oggi con una velocità crescente, e se la nostra azienda dovesse essere la stessa fra 3 anni, sono già certo praticamente che sarebbe destinata a una sparizione in tempi purtroppo ultra brevi. Certo, stare fermi vuol dire fare dei passi indietro. La sua azienda ha iniziato a vivere con appunto i suoi nonni, in pratica come azienda, come farmacia, cioè sì. Presente a Milano con delle farmacie italo-inglesi. Allora c'erano le tradizioni anglosassoni, tant'è vero che il bisnonno aveva studiato a Londra e così anche il nonno, e ha messo su queste farmacie, di cui la più famosa era in Piazza della Scala a Milano, la classica farmacia degli artisti. E noi abbiamo avuto la soddisfazione, quando è cambiato il secolo, che hanno ripubblicato di alcuni quotidiani il primo numero del Novecento, di trovare già la pubblicità della Dompè. Allora si chiamava Dompè Adami. Com'è avvenuto il passaggio dal commerciale al produttivo, dalla farmacia che vendeva farmaci appunto alla produzione di farmaci? Direi che è un fatto assolutamente fisiologico, cioè la commercializzazione è anche lì, se è fatta con passione, ti porta a scoprire dei bisogni e ti porta a vedere degli spazi che nessuno ha ancora coperto, il desiderio naturalmente di poter lasciare in qualche modo una piccola impronta, e quindi il desiderio di riuscire a trasferire qualche soluzione terapeutica che diventi una soluzione valida per i pazienti. Non c'è nessuna attività dal mio punto di vista che ti dà la soddisfazione del lavoro che faccio io, perché è quello di riuscire in qualche modo a contribuire all'aspettativa di vita e di qualità della stessa, del tuo prossimo, è una soddisfazione secondo me enorme. Poi il contributo spesso e volentieri è minore di quello che tu ti aspetteresti e che avresti desiderato, ma questo fa parte del gioco delle cose. Un settore in cui la domanda è sempre presente, sempre stabile, anzi probabilmente crescente, in cui però bisogna rispondere sempre con successivi aggiornamenti di ricerca, di innovazione, di ricerca di nuovi prodotti. Com'è adesso la carta d'identità della sua azienda? Com'è strutturata? Beh, noi siamo strutturati attraverso due collaborazioni stabili con due delle più grandi imprese che fanno biotecnologia al mondo. Io sono stato tra i primi in Italia in assoluto che si è dedicato anima e corpo alle biotecnologie. Sono stato uno dei fondatori di questa linea di pensiero a livello industriale nel nostro paese, sono stato per 6 anni presidente di Assobiotech e ho la soddisfazione di vedere qui in Italia il mio nome accoppiato a due delle più importanti società biotecnologiche, una si chiama Amgen Dompé e l'altra si chiama Biogen Dompé. L'Amgen Dompé è leader nel mondo a livello biotecnologico, è l'azienda con il fatturato più importante in assoluto e ha farmaci importantissimi come fattori di crescita di globuli bianchi, fattori di crescita di globuli rossi, oggi un farmaco importantissimo per i tumori e per l'osteoporosi, mentre la Biogen Idec è leader al mondo per quanto riguarda una gravissima malattia rara che si chiama sclerosi multipla o sclerosi a placche. Ecco, indubbiamente su questi fronti le biotecnologie danno una risposta. Spesso si guarda le biotecnologie con un po' di apprensione, quasi con timore, quasi con la volontà di entrare nella genetica, di entrare a cambiare un po' i meccanismi della vita. L'industria farmaceutica usa in maniera positiva queste biotecnologie? Non sempre l'evoluzione riesce a seguire delle coerenze e non sempre le spiegazioni sono in condizione di rassicurare la popolazione. In realtà le biotecnologie, anche come nome, sono la cosa più semplice di questo mondo perché sono le tecnologie applicate al bio, al vivente. Allora, per tantissimi anni noi abbiamo cercato la soluzione ai nostri problemi con delle sostanze esterne di matrice in genere chimica, qualche altra volta anche in termini naturali, con dei successi importanti. Oggi abbiamo fatto un salto di qualità perché cerchiamo di mimare i meccanismi del nostro organismo. Quindi c'è una funzione che si è ammalorata, che non risponde più come dovrebbe, si cerca di vedere quello che è la funzione vicaria dell'organismo e a intervenire esattamente con quello. Quindi è un modo in fondo naturale di avvicinare i problemi. Incontri. How can I try to explain when I do? Turns away again. It's always been the same, same old story. Ecco, sarebbe bello continuare con queste note di Cat Stevens che ci introducono molto bene all'ospite di oggi, Sergio Dompé, presidente dell'omonima casa farmaceutica, presidente di Farmindustria. Stavamo parlando nella prima parte di biotecnologie, di applicazioni biotecnologiche alla farmaceutica. In fondo, dicevo, un metodo naturale, anche se sembra un metodo di ingegneria genetica e quindi di complicazione, di volontà di alterare i meccanismi della vita, invece è un meccanismo che asseconda la natura, la biotecnologia. Assolutamente, ma è ingegneria genetica, ma il problema dell'ingegneria genetica è capire come siamo costruiti. Sostanzialmente si sta sviluppando una conoscenza che ci porterà ad avere l'ingegneria di dettaglio, non di come è fatta la casa in cui abitiamo, ma il corpo che ci ospita. E questo è essenziale, perché purtroppo so di non sapere e più sviluppiamo le nostre conoscenze, più ci rendiamo conto che la strada da fare è ancora tantissima. Anche se oggi incominciamo in molti tumori, ad esempio, che contrariamente a quello che si pensa, il tumore non è una malattia unica, ma sono tantissime differenti malattie con in comune il meccanismo. Devo dire che per molti di questi incominciamo ad avere dei risultati importantissimi, in altri purtroppo non ancora, e bisogna avere l'onestà e l'umiltà di ammetterlo. Il lavoro della ricerca è fatto di grande caparbietà, accoppiato anche a una grande umiltà. Un'altra delle cose dove noi italiani siamo davvero tra i primi al mondo è la ricerca sulle cosiddette malattie rare. Grazie alla genetica, alle biotecnologie, oggi stiamo indagando meglio e quindi conoscendo un numero di malattie rare, tra virgolette, che sono quelle con una diffusione tutto sommato limitata. Si calcola sotto un caso su 2000, ma sono tantissime queste malattie e grazie alle conoscenze che continuamente stiamo acquisendo sviluppiamo sempre una maggiore coscienza, certo, di questo numero. Allora, lì noi italiani abbiamo abbiamo una delle più alte specializzazioni, perché su 100 pubblicazioni scientifiche fatte naturalmente sulla medicina, diciamo sulla vita, 10,4 sono dedicate alle malattie rare. Nessun paese al mondo ha una percentuale così elevata in termini naturalmente relativi, e su questo incominciamo ad avere anche un numero veramente crescente di progetti di poter dare a queste malattie una speranza di cura dove ancora oggi in molti casi non c'è. Certo, e questo è un senso in fondo di attenzione alla persona, perché queste malattie rare saranno interessate poche persone a queste malattie, però chi è interessato indubbiamente per lui è il problema più importante. Quindi questo sicuramente sì, ma non vorrei ammantare, diciamo, di nobiltà il nostro tentativo. Noi ci crediamo moltissimo anche per quanto riguarda la partner di business, per un motivo scientifico e un motivo pratico, tecnico, di business proprio. Quello scientifico è che spesso e volentieri alla base di queste malattie ci sono dei meccanismi molto importanti che vengono indagati su questi modelli che sono più specifici e poi portano anche a delle positive conoscenze su altre malattie. Sotto il punto di vista del business, l'industria italiana è cresciuta molto in questi anni, ho l'orgoglio di dire, pensate che dal 91 a oggi siamo passati come azienda Italia, sto parlando certo, naturalmente non a livello personale, dal 10% di export medio al 54%, quindi abbiamo moltiplicato per 5,4 lo sforzo che facevamo nel 1991, e devo dire che sotto questo punto di vista anche il numero di progetti che incominciamo ad avere è importante. Abbiamo circa 240 progetti in sviluppo, sempre come sistema italiano, 140 già in fase clinica, quindi già in fase di prova sull'umano, e di questi 40 sono sulle malattie rare, che è un numero molto importante tenendo presente che lo sforzo nel mondo è poco superiore ai 1000, quindi da soli abbiamo quasi il 4% dello sforzo mondiale, che è un dato che no, è tutt'altro che rilevante. Quindi l'Italia ha comunque un posto di primo piano. Farmindustria nei prossimi giorni terrà la propria assemblea annuale. Il bilancio, molto in sintesi, che lei farà è un bilancio positivo di fronte a un sistema industriale che invece nel 2009 ha avuto dei chiaroscuro. Chiaroscuro, come sempre nella vita, se noi ci misuriamo in senso relativo, abbiamo fatto degli sforzi incredibili, il numero di acquisizioni fatto dalle aziende italiane, la capacità di internazionalizzazione, l'export, quella che è la spinta che abbiamo verso il sistema scientifico, il numero di ricerche cliniche che si fa in Italia, il riconoscimento alle tante eccellenze che ci sono nel nostro paese a livello clinico, la contribuzione positiva che portano istituti come AIRCA, come Teleton, come questi che non sono aziende farmaceutiche, ma certo, hanno portato un miglioramento per la qualità che hanno saputo mettere nelle loro progettualità. E quindi questa è la parte positiva. Sul invece discorso scuro, ecco, c'è una massa critica ancora largamente insufficiente, uno sforzo internazionale che è buono ma ancora non bastante, perché ricordiamoci che competiamo in un mondo dinamico in cui anche se hai corso molto bene tu poi non devi essere soddisfatto di te stesso se gli altri tuoi competitori hanno fatto un pezzo di strada addirittura superiore al tuo o ti sono attaccati, come si dice, alle calcagne. E poi non siamo ancora stati capaci di vendere il sistema di valori che abbiamo al paese. Noi siamo convinti che l'industria farmaceutica sia un'industria che ha nell'economia della conoscenza il proprio fulcro e che sia un elemento di aggregazione formidabile di progettualità tra la ricerca pubblica e quella privata, il volontariato di qualità. Troppe volte invece viene usata l'industria farmaceutica per fare cassa, tutti dicono che i farmaci costano cari, è vero, ma d'altra parte oggi per portare un nuovo farmaco al commercio purtroppo l'investimento è cresciuto sopra il miliardo di dollari, dice chissà quanti farmaci fatte, no, purtroppo ne facciamo la metà di quelli che venivano fatti 7-8 anni fa, perché le procedure sono sempre più complesse, anche se in questo devo dire che abbiamo un mondo scientifico, una clinica e delle autorità, parlo in particolare dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'AIFA, che oggi sono addirittura motori nel cambiamento, nel riuscire a studiare un modello di regolamentazione che vada a mimare quelle che sono le esigenze dei pazienti. Ecco, quindi un'industria presente a livello internazionale, un'industria complessa che non è solo nel suo core business ma nella sua filiera, ha più di 200.000 persone collegate, quindi un'industria importante per il sistema sistema Italia, un sistema Italia in cui è sempre un po' complesso fare impresa, fare l'imprenditore. Sì. Quali sono i punti in cui proprio l'impresa, il carico fiscale indubbiamente, le complessità burocratiche, si parla di dare una maggiore libertà all'impresa, lei è d'accordo? Ma io credo che l'iniziativa un po' di bandiera che sta portando avanti Tremonti sul discorso di liberare dai lacci e lacciuoli proprio il modo di fare impresa, perlomeno per quelle iniziali, per il nostro paese è qualcosa di estremamente importante. Non c'è la cultura della competitività, non c'è la cultura del tempo, mentre oggi è tutta una questione di tempo. Noi perdiamo delle sperimentazioni cliniche semplicemente perché non siamo in condizione di poter garantire che in 60 giorni esauriamo tutto il processo regolatorio in capo agli ospedali, cosa su cui evidentemente stiamo lavorando insieme alle autorità. Con le regole di oggi il nostro produttore di farmaceutici piuttosto che di materie prime viene messo direttamente a contatto con dei sistemi che non hanno neanche la metà della metà dei costi che noi dobbiamo sostenere per arrivare a dare un certo tipo di risultato in termini di naturalmente contributi, in termini di costo della manodopera, in termini di servizio sanitario nazionale, tutte quelle cose che diciamo quegli istituti che fanno del nostro paese un paese civile, lo dico naturalmente da italiano orgoglioso di fare in modo che chiunque davanti alla malattia sia, non dico uguale, ma che abbia la possibilità di una seria cura, cosa che non in tutto il mondo è così. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna che ci ricordiamo che se le regole della competitività non sono le stesse per tutte, noi ci troveremo a esportare involontariamente in silenzio un sacco di industrie competitive, non perché chi è all'estero è più bravo di noi, allora sarebbe legittimo e giusto, ma semplicemente perché ha di rispondere di un carico di costi che parte da meno della metà del nostro, e quindi alla fine anche uno più modesto riesce ad avere successo su un'impresa che fa questo. E dove abbiamo delle leadership mondiali, qualcuno dovrebbe guardarci dentro e ricominciare a fare una politica industriale selettiva dove noi italiani siamo competitivi in una maniera un po' più seria, bipartisan in questo caso naturalmente, certo. Ecco, questo non sia stata fatta negli ultimi 15 anni. Esportiamo purtroppo anche ricercatori che vanno all'estero molto più facilmente, trovano proprio lavoro, è difficile farli rientrare in Italia anche sotto il profilo della ricerca e della capacità dell'università di fornire ingegneri e ricercatori. L'Italia ha qualche problema. L'export di ricercatori è una cosa di cui secondo me dobbiamo andare orgogliosi, non è un problema. Il problema è il mancato import di ricercatori e la non attrattività del nostro sistema, anche per questioni banali, perché fare una coda di magari 2 giorni perché un extracomunitario, magari statunitense, ha avuto la sventura di farsi convincere a venire a fare un pezzo della sua vita da ricercatore qui in Italia è un problema, e così di cose di questo genere ce ne sono, come lei mi insegna, decine. Siamo verso la conclusione. Che cosa lei proporrebbe per dare uno spunto in più a questa nostra economia italiana che è un po' faticata, a qualche sussurro di troppo? Posso essere controcorrente? Assolutamente sì. Ognuno di noi dia un po' meno consigli e cerchi di fare il proprio lavoro un po' meglio di quanto non riesca a farlo attualmente. Allora faccio un po' di autocritica come Farmindustria. Che cosa proporrà ai suoi soci fra un paio di giorni all'assemblea per fare ognuno il proprio dovere? Noi cercheremo di fare in modo di dare ancora più valore e di cercare di far comprendere meglio, di giustificare tutti i costi che noi sosteniamo e che chiediamo naturalmente ai consumatori il servizio sanitario di sostenere. Per darle una battuta conclusiva su questo, noi siamo l'unica associazione al momento industriale che paga i contributi sulla base del fatturato che fai, ma che esprime i voti in associazione sulla base dei ricercatori che impieghi del nostro paese e lavoratori che sono connessi con la produzione ad alto livello, con l'export complessivo che fai, le tasse che paghi nel nostro paese e infine anche il fatturato. Credo che sia un bel esempio, diciamo, di quello che vorremmo rappresentare. Io ringrazio Sergio Dompè di essere stato con noi questa domenica mattina. Buon lavoro, e buon lavoro anche perché è interesse poi di tutti noi che l'industria del farmaco lavori al meglio e ci sappia risolvere quei problemi che purtroppo prima o poi tutti noi abbiamo, speriamo magari di avere il più tardi possibile e nella misura minore possibile. Almeno ci proviamo. Grazie. Grazie dottor Dompè, io ringrazio Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica.